Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Il professor Ermanno non aveva venduto fumo. Effettivamente, fra i quasi 20.000 libri di casa, moltissimi dei quali di argomento scientifico o storico o variamente erudito, in tedesco i più di questi ultimi, ce n'erano parecchie centinaia che appartenevano alla letteratura della Nuova Italia. Di quanto poi era uscito dall'ambiente letterario carducciano di fine secolo, nei decenni in cui il Carducci aveva insegnato a Bologna, si può dire che non mancasse nulla. C'erano i volumi in verso e in prosa non solo del maestro, ma quelli di Panzacchi, di Severino Ferrari, di Lorenzo Stecchetti, di Ugo Brilli, di Guido Mazzoni, del giovane Pascoli, del giovane Panzini, del giovanissimo Valgimigli, prime edizioni in genere, quasi tutte recanti dediche autografe alla baronessa Josette Artom di Susegana. Riuniti in tre isolate scansie a vetri che occupavano tutta una parete di un vasto salone del primo piano, attiguo allo studio personale del professor Ermanno, diligentemente catalogati, questi libri, non c'è dubbio, erano una collezione di cui qualsivoglia pubblica biblioteca, compresa quella bolognese dell'archiginnasio, avrebbe ambito fregiarsi. Dalla raccolta non erano assenti nemmeno i quasi introvabili volumetti di prose liriche di Francesco Acri, il famoso traduttore di Platone, a me noto fino allora esclusivamente come traduttore, non così santo dunque come ci garantiva in quinta ginnasio il professor Meldolesi, perché era stato scolaro anche dell'Acri, Meldolesi, se le sue dediche alla nonna di Alberto e Micol risultavano nel coro forse le più galanti, le più maschilmente consapevoli dell'altera bellezza alla quale si riferivano. Potendo disporre con ogni comodo di una intera biblioteca specializzata, e stranamente avido, oltre a ciò, di ritrovarmi ogni mattina là, nella grande, calda, silenziosa sala che prendeva luce da tre alti finestroni addobbati di mantovane di seta bianca a strisce rosse verticali e al cui centro, coperto da una fodera color topo, si allungava il tavolo del biliardo, nei 2 mesi e mezzo che seguirono mi riuscii di portare a termine la mia tesi sul Panzacchi. Se proprio lo avessi voluto, probabilmente sarei riuscito a finirla anche prima. Ma era questo che avevo cercato? O non avevo cercato piuttosto di conservare il più a lungo possibile il diritto di presentarmi a casa Finzi Contini anche di mattina? Certo è comunque che circa a metà marzo era giunta frattanto la notizia della laurea di Micol, 110 su 110, io continuavo ancora a restare attaccato torpidamente a quel mio povero privilegio di uso anche mattutino della casa dalla quale lei insisteva, chissà perché, a tenersi lontana. Non ci separavano che pochi giorni dalla Pasqua cristiana, quell'anno pressappoco coincidente con Pesach, la Pasqua ebraica. Sebbene la primavera fosse ormai alle porte, una settimana avanti era nevicato con straordinaria abbondanza, dopodiché il freddo era tornato intenso. Sembrava quasi che l'inverno non volesse più andarsene, insomma, e anche io, il cuore abitato da un oscuro, misterioso lago di paura, mi aggrappavo al breve scrittoio che il professor Ermanno, dal gennaio scorso, aveva fatto collocare per me nel salone del biliardo, sotto la finestra di mezzo, come se, così facendo, mi fosse dato di arrestare l'inarrestabile progresso del tempo. Mi alzavo, mi accostavo alla finestra, guardavo giù nel parco. Sepolto sotto una coltre di neve di 40 centimetri di spessore, il barchetto del Duca si stendeva dinanzi a me come un paesaggio di ghiaccio, da saga nordica. A volte mi sorprendevo a sperare appunto questo, che neve e gelo non si sciogliessero più, che durassero eterni. Per 2 mesi e mezzo le mie giornate erano state pressoché le stesse. Puntuale come un impiegato, uscivo di casa nel freddo pungente delle 8:30, quasi sempre in bicicletta, ma talora anche a piedi. Al massimo, dopo 20 minuti, suonavo al portone in fondo a Corso Ercole I d'Este. Attraversavo quindi il parco, pervaso verso febbraio dal delicato odore dei gialli fiori del calicanthus. Alle 9 ero già al lavoro, nel salone del biliardo, dove mi trattenevo fino all'1 e dove tornavo nel pomeriggio verso le 3. Più tardi, sulle 6, passavo da Alberto, sicuro di trovarci anche malnate. E spesso, infine, come ho già detto, tanto io quanto lui venivamo invitati a cena. A questo proposito, anzi, era diventato ben presto così normale per me restare a cena fuori che non telefonavo nemmeno più per avvertire a casa che non mi aspettassero. Uscendo, avevo magari detto alla mamma: «Credo che stasera rimarrò a cena là». Là. E non c'era bisogno di altre precisazioni. Lavoravo per ore e ore, senza che nessuno si facesse vivo, tranne Perotti, attorno alle 11, recante sopra un vassoietto d'argento una tazzina di caffè. Anche questo, del caffè delle 11, era diventato quasi subito un rito quotidiano, un'abitudine acquisita su cui non valeva la pena che né io né lui spendessimo parole. Ciò di cui mi discorreva Perotti, mentre aspettava che avessi finito di sorbire il caffè, era semmai dell'andamento della casa, a suo parere gravemente compromesso dall'assenza troppo prolungata della signorina, che, va bene, sì, aveva da diventare professoressa, per quanto... E questo per quanto, accompagnato da una smorfia dubitativa, poteva alludere a tante cose, alla nessuna necessità che i padroni, beati loro, avevano di guadagnarsi la vita, come anche alle leggi razziali, che in ogni caso avrebbero reso i nostri diplomi di laurea dei puri pezzi di carta, privi della minima utilità pratica. Ma non perciò era giusto che si esimesse dal fare una scappata una settimana sì e una no, poniamo, dato che senza lei la casa stava andando rapidamente a remengo. Con me, Perotti trovava sempre il modo di lagnarsi dei padroni. Stringeva le labbra, ammiccava, scuoteva il capo in segno di sfiducia e disapprovazione. Quando si riferiva alla signora Olga, arrivava perfino a toccarsi la fronte col rozzo indice. Io non gli davo corda, naturalmente, fermissimo a non accettare questi suoi ricorrenti inviti a una complicità servile che, oltre a repugnarmi, mi feriva. E di lì a poco, infatti, di fronte ai miei silenzi, ai miei freddi sorrisi, a Perotti non restava altro da fare che andarsene, lasciarmi di nuovo solo. Un giorno, in sua vece, si presentò la figlia minore, la Dirce. Anche lei attese al lato della scrivania che avessi finito di bere il caffè. Bevevo e la sogguardavo. «Come si chiama, lei?» le domandai, restituendole la tazzina vuota, col cuore che intanto mi si era messo a battere a precipizio. «Dirce», sorrise, e arrossì violentemente. Indossava il suo solito camice di grossa tela azzurra, curiosamente odoroso di nursery. Scappò via, evitando di rispondere al mio sguardo, che cercava di incontrarsi col suo. E un attimo dopo già mi vergognavo di quanto era accaduto. Ma che cosa era accaduto, poi? Come del più vile, del più sordido dei tradimenti. Della famiglia, l'unico che comparisse ogni tanto era il professor Ermanno. Con tale precauzione apriva la porta dello studio, laggiù in fondo, e quindi, in punta di piedi, veniva avanti attraverso il salone, che il più delle volte mi accorgevo di lui soltanto quando era già lì, di fianco a me, chino rispettosamente sulle carte e sui libri che avevo dinanzi. «Come va?» chiedeva compiaciuto. «Mi sembra che procediamo a gonfie vele». Accennavo ad alzarmi. «No, no, continua pure a lavorare», esclamava. «Vado via immediatamente». Di solito, infatti, non restava più di 5 minuti, durante i quali trovava sempre il modo di manifestarmi tutta la simpatia e la considerazione che la mia tenacia nel lavoro gli ispiravano. Mi guardava con occhi ardenti, brillanti, come se da me, dal mio futuro di letterato, si aspettasse chissà che cosa, come se contasse su di me per qualche suo disegno segreto che trascendeva non solamente lui, ma anche me stesso. E ricordo, a tale proposito, che questo suo atteggiamento nei miei riguardi, pur lusingandomi, un poco mi addolorava. Perché mai non pretendeva altrettanto da Alberto, mi chiedevo, che pure era suo figlio. Per quale ragione da lui accettava senza proteste o rimpianti, difatti non se ne lagnò mai, che avesse rinunciato a laurearsi? E Micol? A Venezia Micol stava facendo esattamente quel tanto che facevo io, stava finendo di scrivere la sua tesi, eppure non c'era mai caso che la nominasse Micol, o se vi accennava non ne sospirasse. Aveva l'aria di dire: è una ragazza e le donne è meglio che pensino alla casa, altro che alla letteratura. Ma dovevo proprio credergli? Una mattina, tuttavia, si trattenne a conversare più a lungo del consueto. Gira Gira venne a parlare una volta di più delle lettere del Carducci e dei propri lavoretti di argomento veneziano. Tutta roba, disse, accennando al suo studio dietro le mie spalle, da lui custodita di là. Sorrideva misteriosamente, frattanto, il volto atteggiato a un'espressione furbesca e invitante. Era chiaro, voleva condurmi di là e voleva al tempo stesso che fossi io a proporre di esservi condotto. Non appena mi fui reso conto di quanto egli desiderava da me, mi affrettai ad esaudirlo. Ci trasferimmo così nello studio, il quale era una stanza poco meno vasta del salone del biliardo, ma impicciolita, resa anzi angusta da una incredibile congerie di cose disparate. Di libri, per cominciare, ce n'erano anche qui moltissimi, quelli di argomento letterario mescolati con quelli di scienza, matematica, fisica, economia, agricoltura, medicina, astronomia, quelli di storia patria, ferrarese o veneziana, con quelli di antichità giudaiche. I volumi stipavano senza ordine e a caso le solite scansie a vetri, occupavano buona parte del gran tavolo di noce, di là dal quale, sedendo, il professor Ermanno non riusciva probabilmente a emergere che con la sommità del berretto. Si ammonticchiavano in pile pericolanti sopra le sedie, si accatastavano perfino per terra, in cumuli sparsi un po' dappertutto. Un grosso mappamondo, poi, un leggio, un microscopio, mezza dozzina di barometri, una cassaforte d'acciaio verniciata di rosso scuro, un candido lettino da ambulatorio medico, varie clessidre di diversa misura, un timpano d'ottone, un piccolo pianoforte verticale tedesco sormontato da due metronomi chiusi nei loro astucci a piramide e molti altri oggetti, oltre a questi, di dubbio impiego e che non ricordo, conferivano all'ambiente un'aria da gabinetto faustiano, della quale lui, il professor Ermanno, fu il primo a sorridere e a scusarsi come di una debolezza del tutto personale, privata, quasi come di un residuo di ubie giovanili. Dimenticavo però di dire che di quadri qui, a differenza che in pressoché tutte le altre stanze della casa, sovraccariche di pittura, non se ne vedeva che uno, un enorme ritratto a grandezza naturale del Lembach, incombente come una pala d'altare dalla parete dietro il tavolo. La splendida dama bionda in esso effigiata, dritta in piedi, nude le spalle, il ventaglio nella mano guantata e col serico strascico dell'abito bianco riportato in avanti a dar risalto alla lunghezza delle gambe e alla pienezza delle forme, altra non era ovviamente che la baronessa Josette Artom di Susegana. Che fronte di marmo, che occhi, che labbro sdegnoso, che petto. Pareva davvero una regina. Il ritratto della madre fu l'unica cosa, fra tutte quelle presenti nello studio, di cui il professor Ermanno non sorridesse, né quella mattina, né mai. Quella stessa mattina, comunque, fui gratificato finalmente dei due opuscoli veneziani. In uno di essi, mi spiegò il professore, erano raccolte e tradotte tutte le iscrizioni del cimitero israelitico del Lido. L'altro, invece, trattava di una poetessa ebrea vissuta a Venezia nella prima metà del Seicento e tanto nota ai suoi tempi quanto adesso, purtroppo, risultava dimenticata. Si chiamava Sara Henriquez o Henriquez Avigdor. Nella sua casa, in Ghetto Vecchio, aveva tenuto aperto per qualche decennio un importante salotto letterario, assiduamente frequentato, oltre che dal dottissimo rabbino ferrarese veneziano Leone da Modena, da molti letterati di primo piano dell'epoca, e non soltanto italiani. Aveva composto molti ottimi sonetti, che aspettavano ancora la persona capace di rivendicarne la bellezza. Aveva corrisposto brillantemente per lettera, durante oltre 4 anni, col famoso Ansaldo Cebà, un gentiluomo genovese, autore di un poema epico sulla regina Esther, il quale si era messo in testa di convertirla al cattolicesimo, ma poi alla fine, vista inutile ogni insistenza, aveva dovuto rinunziarvi. Una gran donna, in conclusione, onore e vanto dell'ebraismo italiano in piena controriforma, e in qualche modo anche della famiglia, aggiunse il professor Ermanno, mentre si sedeva a scrivermi 2 righe di dedica, giacché sua moglie, da parte di madre, pareva assodato che discendesse appunto da lei. Si alzò, girò attorno al tavolo, mi prese sotto braccio e mi condusse nel vano della finestra. C'era una cosa, tuttavia, continuò abbassando la voce, come se temesse che qualcuno potesse udire, di cui sentiva l'obbligo di avvertirmi. Se in futuro fosse capitato anche a me di occuparmi di questa Sara Enriquez o Enriquez Avigdor, e l'argomento era di quelli da meritare uno studio ben altrimenti accurato e approfondito di quanto lui non avesse potuto fare in gioventù, a un certo punto, fatalmente, avrei dovuto vedermela con qualche voce contraria, discorde, infine con certi scritti di letterati di quart'ordine, per lo più contemporanei alla poetessa, libellacci, traboccanti di invidia e di antisemitismo, i quali tendevano a insinuare che non tutti i sonetti che circolavano con la sua firma e neppure tutte le lettere da lei scritte al Cebà fossero, come dire, farina del suo sacco. Orbene, lui, stendendo la sua memoria, non aveva certo potuto ignorare l'esistenza di queste dicerie, e infatti, come avrei visto, le aveva puntualmente registrate. Comunque, si interruppe per scrutarmi in viso, dubbioso delle mie reazioni. Comunque, riprese, anche se io, in un domani, avessi pensato, mi fossi deciso a tentare una rivalutazione, una revisione, lui mi consigliava fin d'ora di non dare eccessivo credito a malignità magari pittoresche, forse anche gustose, ma dopotutto fuorvianti. In fondo, cos'è che ha da fare l'ottimo storico? Proporsi, sì, come ideale, il raggiungimento della verità, senza però mai smarrire per istrada, in ogni caso, il senso dell'opportunità e della giustizia. Non ero d'accordo? Chinai il capo in segno d'assenso e lui, sollevato, mi batté leggermente sulla schiena col palmo della mano. Ciò fatto, si staccò da me, attraversò curvo lo studio, si chinò ad armeggiare attorno alla cassaforte, l'aprì, traendone finalmente fuori un cofanetto ricoperto di velluto azzurro. Si volse, tornò tutto sorridente verso la finestra e prima ancora di aprire il cofanetto disse che sì, lui indovinava che io avevo indovinato. Lì dentro erano appunto conservate le famose lettere carducciane. Ammontavano a 15 e non tutte, soggiunse, le avrei forse giudicate di grande interesse, giacché ben 5 di esse trattavano dell'unico soggetto di una certa salama da sugo delle nostre campagne che il poeta, ricevutala in dono, aveva mostrato di apprezzare altamente. Ciò non di meno ne avrei trovato una, fra le altre, che mi avrebbe colpito di sicuro. Era una lettera dell'autunno del 75, scritta cioè quando già cominciava a profilarsi all'orizzonte la crisi della destra storica. Nell'autunno del 75 la posizione politica del Carducci era la seguente. Come democratico, come repubblicano, come rivoluzionario, egli affermava di non poter non schierarsi che con la sinistra di Agostino De Pretis. D'altra parte, l'irto vinattier di Stradella e le turbe dei suoi amici gli parevano gente volgare, ometti. Costoro non sarebbero mai stati in grado di restituire l'Italia alla sua missione, di farne una nazione grande, degna dei padri antichi. Restammo a parlare insieme fino ad ora di pranzo, con questo risultato, tutto sommato, che da quella mattina in poi la porta di comunicazione fra il salone del biliardo e lo studio attiguo, anziché sempre chiusa, rimase spesso aperta. La maggior parte del tempo ognuno dei due continuava a passarla nella rispettiva stanza, si capisce, però ci vedevamo assai più di frequente che non prima, il professor Ermanno venendo da me ed io recandomi da lui. Attraverso la porta, quando era aperta, ci scambiavamo perfino qualche frase. «Che ora è? Come va il lavoro?» e simili. Qualche anno più tardi, nell'inverno del 44, in carcere, le frasi che avrei scambiato con un ignoto vicino di cella, gridandole in alto, verso lo spiraglio della bocca di lupo, sarebbero state di questo tipo, dette così, soprattutto per il bisogno di sentire la propria voce, di sentirsi vivi. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.